queste forme dell'inconscio spesso prendono una forma un po' magnetica, è come immergersi in una sabbia mobile, è un gorgo. Quindi il contattare queste parti sofferenti, se non siamo carrozzati, cioè non abbiamo tutti i nostri strumenti, conosciamo bene la meditazione, sappiamo bene come centrarci, eccetera, ci trascinano dentro. E allora invece avere questa parola, questa immagine, quando sento che sono in procinto di cadere, perché non siamo ancora ben strutturati, possiamo rievocare questa parola o questo gesto, no? Non so, mi viene una mano sul cuore, mettendo la mano sul cuore, si riattiva un po' l'energia positiva, la luce che è dentro di noi. Ecco, questo è l'utilizzo. Quindi, chi non è riuscito la settimana scorsa durante la serata, mi auguro che durante questa settimana sia in qualche maniera riuscito a far sorgere un'immagine, una parola, una frase o un gesto, insomma, qualcosa che diventi una specie di salvavita, ecco, di gancio. Io ho pensato una cosa rispetto a questo, avendo trovato l'immagine e tutto il resto, l'immagine, le parole. Poi quando ci ho ripensato ho detto, ma che felicità era quella, che bel periodo era. Era un periodo in cui ero completamente inconsapevole e quello che sarebbe stato è nato proprio da quelle cose. Per certo. cui non so se è un boicottaggio mentale, però questo mi viene proprio limpido dentro di me. Io sì, è tutto chiaro, chiaramente, però io in questa fase lascerei perdere l'analisi, qualsiasi forma di analisi. In quel momento stavo bene, punto. Questo fa sorgere un'immagine, ok, una frase, va bene, perfetto. Che poi sia inconsapevole, poi da lì si sono innescati tutti i meccanismi, mente, è solo la mente. È solo la mente. Troviamo quel momento, lo ravviviamo e se riusciamo da quel momento ad avere un gancio che ci porti ad un momento di luce, abbiamo fatto il nostro. E qualcuno proprio non ci è riuscito? No, classe eccezionale. Ah, io volevo portare due considerazioni. Una che l'andare a quel momento mi porta via dell'essere presente Certo, o no. certo. È perché non siamo abituati. Però se noi ci immergiamo in quel momento, tu dici, beh, è un proiettare in un ricordo che mi toglie dalla presenza. Potrei anche dirti, riesco a vivere in presenza quel ricordo? È un po' difficile, un po' più difficile, no? Però potrei sentire adesso, quindi sono nella presenza, ciò che ha prodotto l'allora. E allora questo è un lavoro un po' diverso, perché porta quella luce nel momento presente. Poi, se io mi aggancio lì e da lì comincio a proliferare, è chiaro che mi sto distraendo. Mentre io non mi concentro tanto perché è una giustissima considerazione. Vi faccio un esempio, non so, ho vissuto un momento di grande felicità. Butto lì, non è vero, ma 3 anni fa al mare con gli amici, in quel momento stavo bene. Se io porto nell'adesso quella sensazione, quello stato dell'essere, vivo nel presente. Se invece comincio a ricordare Tizio che aveva portato il salame e Caio che ha tirato fuori, poi ci hanno raccontato di qua, poi con certa pioggia, lì si è costruita una catena di pensieri, mi sto distraendo. Il lavoro è un po' diverso. L'altra cosa era che ho visualizzato il momento Sì. già la scorsa settimana qui e dopo provando a ritornarci ogni volta ho avuto l'impressione che perdesse un po' di potenza Di come intensità. intensità, sì, ogni Sì. volta è stato proprio Sì. è quel momento là. dopo ogni giorno provando a ritornare là, imparavo che un po' si affievolisse, di più. Allora, in questo caso, l'altra volta l'avevo detto, ma forse infine un po', eravamo un po' tutti anche stanchi, era necessario solo la prima volta per trovare la parola o il gesto. Poi, chi l'aveva trovata in questa sessione poteva continuare con le sue meditazioni normali, o se no, giustamente, tornare a quel momento per ravvivare quell'immagine, consolidarla e solidificarla. È chiaro che se insisto tanto, la mente comincia ad abituarsi e quell'abitudine mi risulta difficile mantenere quell'entusiasmo alto, perché la mente è pigra e se torniamo sempre sulle stesse cose, lei semplicemente le fa diventare un'abitudine. È una cosa interessante anche l'esperimento che hai fatto tu, però, perché ti ha fatto vedere come e cosa succede se io prolungo ancora, che quell'evento diventa solo distrazione. Quindi bisognerebbe usarlo le prime volte solamente ravvivando, addirittura in alcuni testi è scritto portate più luce in quel momento, cioè cosa vuol dire? Quasi da vivificare la luce di quel momento, ancora più luminoso, in modo che si discosti un po' da quel ricordo e che acquisisca nuova linfa. E allora la frase, il gesto, l'immagine o la parola comincia a solidificarsi di più. Ok? Questo lo capisco. È un bel lavoro, guardate, dopo stasera vi do, facciamo un passetto in più e cominciamo a lavorare su altre cose che io immagino e penso molto importanti. Quando l'ho fatto io mi ha portato beneficio, poi il mio insegnante di allora stavamo facendo un percorso di docenza, quindi ci ha dato tutta una serie di dritte e devo dire che è stato veramente interessante. Noi in questo tipo di lavoro l'abbiamo fatto in un intensivo, quindi 4-5 giorni in cui abbiamo trattato solo questa cosa qua tutto il tempo, dalla mattina alla sera. Però è stato veramente interessante. Va bene, allora facciamo un po' di rilassamento e un po' di meditazione, poi ci immergiamo in questa cosa. Ci stendiamo in Shavasana, come sempre, prendo la luce. Ormai conoscete bene questa pratica, ma prendetela sempre molto sul serio, perché è un momento in cui ci prendiamo cura di noi stessi. Ed è molto importante perché non lo facciamo quasi mai, usiamo il nostro corpo come uno strumento di lavoro, invece il nostro corpo in alcuni testi viene chiamato il tempio, molto importante. Sistemiamo bene il corpo, quindi osserviamo bene anche i punti un po' più delicati, un po' più tesi, cerchiamo di metterlo in una posizione che ci sia di aiuto. Gli occhi sono morbidamente chiusi, le mani sono lungo i fianchi, le palme possibilmente rivolte verso l'alto. Qualche respiro più profondo. E poi piano piano, lentamente, lasciamo che la nostra attenzione si appoggi al respiro. Iniziamo sempre questa pratica ed ogni pratica di consapevolezza collegandoci con il respiro. È come se desiderassimo prendere contatto con le nostre correnti vitali, con il nostro flusso della vita che viene ritmato dal respiro. Il respiro è un nostro amico, un fedele compagno. Ci aiuta a trovare il nostro centro. Ad ogni inspirazione portiamo energia, luce e vita nel corpo. espirazione possiamo lasciare andare, rilassare, ammorbidire. Portiamo l'attenzione alle varie parti del corpo, in maniera autonoma, ognuno per conto suo. E se in queste parti del corpo incontriamo un po' di tensione, una lieve contrazione, magari anche un piccolo dolore, proviamo a rilassare espirando. Proviamo a lasciare andare quella tensione, quella contrazione, espirando. Lasciamo andare spalle, braccia, lasciamo andare torace, la schiena, ammorbidiamo le gambe, i piedi, le mani. Piano piano lasciamo andare. Non preoccupiamoci se la mente inizia a vagare, va bene così. Semplicemente la riprendiamo con grande gentilezza, la riportiamo al respiro e al corpo, con gentilezza ma anche con una certa decisione. Cerchiamo di distendere anche la più piccola tensione, magari la fronte un po' corrugata, la mandibola che magari è un po' tesa, oppure le spalle. Osserviamo bene ogni punto del corpo ed espirando lasciamo andare. Ammorbidiamo. Facciamolo con cura, con dedizione. Ci stiamo prendendo cura del nostro corpo. piano piano il corpo inizia ad andare sullo sfondo, ad essere un po' rarefatto, quasi perdesse i suoi confini. E allora possiamo osservare con maggiore attenzione il respiro. Ed avvertire i piccoli movimenti che fa il corpo durante la respirazione. Si espande un po' il ventre, magari si amplia un pochino il torace. Sono minuscoli movimenti piccoli su cui possiamo portare la nostra attenzione. Ed ora lentamente iniziamo a prendere contatto col corpo nuovamente. Lo facciamo con piccoli movimenti nelle estremità, dita dei piedi, dita delle mani, come siamo soliti fare. Piano piano riprendiamo contatto con il nostro corpo, gambe, braccia. Proviamo a riabitarlo fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. In quel momento rimaniamo ancora per qualche istante fermi per prendere contatto con l'ambiente circostante. E quando ci sentiamo pronti, quando sentiamo che è venuto il momento, possiamo rimetterci seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco per non danneggiare la schiena. Senza perdere compattezza, senza farci distrarre, prendiamo la nostra posizione di meditazione. Lentamente, non abbiate fretta, ma senza perdere presenza, senza farci distrarre. La schiena è sufficientemente diritta, il mento lievemente abbassato, ognuno assuma la posizione ormai consona per un momento di centratura e di meditazione. Portiamo l'attenzione al respiro, cerchiamo di raggiungere la presenza che ci permetta di trascorrere qualche momento in pace e in consapevolezza. Cerchiamo, quando pratichiamo qui assieme, di coltivare sempre un pensiero di gratitudine. gratitudine verso noi stessi, che stiamo dedicando un po' del nostro tempo alla presenza, alla consapevolezza, ad un sentiero di autoconoscenza, ma anche un pensiero di gratitudine per i nostri compagni di viaggio, un gruppo che sta camminando assieme, si sta conoscendo e si sostiene. Non è così scontato. Sono doni preziosi che abbiamo incontrato nel percorso e dei quali dovremmo essere grati. E rimaniamo così in silenzio per qualche minuto nella presenza fino a quando non mi richiamo. Sembra una luce. Come va? Cioè? Sarebbe stato fatto tutta la sera così? Senza che perderci in chiacchiere. Purtroppo sapete che io sono un po' maniaco anche della parte teorica. Vedete tutti erano nella mano? Sì. Spostatevi per perché non questo per fare. Allora, l'altra volta ho cercato di crearvi un quadro su che cos'è la parte inconscia o quello che viene chiamato ombra. Più o meno per tutti è chiaro, non è necessario avere proprio tutte le cognizioni, ma è stato un quadro abbastanza comprensibile o va ripreso qualche concetto? Ma era tutto un dubbio. Sì. Si era detto che quasi tutte, la maggior parte delle scelte che facciamo nel presente provengono dalla parte inconscia. Sì. Il dubbio che era venuto allora era quando è che si percepisce che l'intuito ci porta nel giusto piuttosto che una scelta azzardata? Allora, diciamo che l'intuito è sempre una scelta non deduttiva né induttiva, cioè non è dovuta a delle cause, ma l'intuito è in qualche modo un accedere ad un altro piano di comprensione, è un piano diverso del quale non avevamo neanche consapevolezza piena, avevamo dei barlumi e poi viene la classica idea o il classico aggancio, ma che pare non debba avere nessun contatto con quello che era, quello è l'intuito. Poi sul fatto che le scelte siano tutte dovute a moti dell'inconscio è relativamente vero, non è vero del tutto. Alcune scelte che facciamo sono molto lucide, diciamo che però le cause che le muovono potrebbero essere radicate nella nostra parte inconscia, potrebbero. Però di solito ci sono delle scelte anche in strati molto superficiali che sono quello che facciamo tutti i giorni, mangio un panino o mangio la minestra, vado a destra o vado a sinistra, queste sono scelte che sono dovute al caso e alla contingenza, ma ci sono magari scelte invece, quando intendo le scelte nascono dalla parte inconscia, sono quelle scelte che vengono dalla pancia, quelle scelte emotive, quando dobbiamo decidere di stare con una persona, se una persona ci è simpatica o antipatica. Pensate ad esempio a quando abbiamo quel moto di rifiuto per persone, forse l'ho detto anche l'altra volta, che non conosciamo ma che si avvicinano a noi. Cioè questa, si dice, questa sensazione è a pelle, si dice, no? Ecco, lì è quasi sicuramente una parte più profonda di noi che reagisce a questa persona, che magari è dovuto a mille cose che non riusciamo ad intuire, un capo di vestito, la sua andatura, il modo di sorridere, una parte della fisionomia, questo può avere incrociato o contattato qualcosa di noi di cui noi non siamo consapevoli completamente o quasi nulla, e allora lì sì, c'è un aggancio con parti più profonde di cui non abbiamo presenza, insomma. Vabbè, comunque più o meno sì. Io credo che sia una domanda con una risposta forse non rispondibile, ma o non qui, insomma. Il capitolo dei sogni, io sono riuscita a ricordare diversi sogni, ma dicevamo l'altra volta, una volta individuato, non lo so se un simbolo, come lo allora, gestisco dopo? Allora, ne parlavamo prima con Alessandro. Sono molto restio a lavorare con i sogni degli altri, anzi io non quasi mai mi cimento, perché da quello che ho capito io qui siamo veramente un po' sui miei confini, perché io ho lavorato molto sulla parte onirica ma con strumenti sciamanici e quindi siamo molto fuori da questo ambito, e poi il mio lavoro non è continuato utilizzando la psicologia buddista, perché lì andiamo un po' fuori e dovremmo entrare in tradizioni come il buddismo tibetano, ad esempio, che ha lavorato, su queste parti. E, per cui io, diciamo che con i sogni degli altri non avrei né gli strumenti, non saprei nemmeno come. E secondo me è abbastanza delicato. Io dubito tantissimo su chi dice di interpretare i sogni. Mi pare che ne parla anche Jung in uno dei suoi testi. Lui ha scritto molto sui sogni, sono testi meravigliosi, ma ognuno li deve prendere e fare propri. Perché, ad esempio, il sorgere di un simbolo, venendo alla tua domanda, è il sorgere di una forma archetipica che per sua natura è polimorfe. Cosa vuol dire? Che il simbolo di per sé, qua siamo in 15, potremmo vedere 15 modi diversi di agganciare la nostra vita. Qual è quello giusto? Tutti e nessuno. Perché tutti e nessuno? Perché, ripetiamo, non è un processo deduttivo per cui da 1 arrivo a 10 e devo passare per forza per 2, 3, 4, 5. No, il caso del simbolo è completamente diverso. Quindi mi si palesa un'aquila con le ali spiegate, magari, no? Con un occhio solo e il becco di un'altra, butto lì. E in questo caso è chiaro che se è una parte del mio inconscio che si manifesta attraverso un simbolo, sfido chiunque, a meno che non abbia fatto nella tua vita, un'anamnesi profondissima di tutto quello che è stato la tua infanzia e adolescenza, conosca tutto perché può darti delle indicazioni. Ma se no, capisci, è molto difficile per una persona terza dire quell'aquila con le ali spiegate ha questo significato, il tuo desiderio di diventare, non so, comandante di un Boeing 747, capito? E questo è veramente difficilissimo. Mentre per chi sogna, questi simboli, lasciandoli decantare, tornano prima o poi, chiaramente a mente lucida, con degli agganci abbastanza chiari, abbastanza, della propria vita, di quella che è stata la propria vita. Perché il mio dubbio era questo. Molti sogni sono legati a cose che magari hai sentito, visto, vissuto, certo, il giorno prima di sognarle, no? Certo. Esempio, un amico di mia figlia in carrozzina, poi io sogno di essere in carrozzina, quindi è chiaro che c'è un aggancio, ma certo, la lettura poi devo tenerla lì. Allora, non tutto quello che sorge naturalmente ha un senso in quello che stiamo analizzando noi. Possono essere veramente frammenti di vita appena passata, eccetera. Ma ci sono alcuni accadimenti, alcuni eventi del sogno che potrebbero diventare interessanti. Allora, quando io dico di tenere un diario onirico, per chi di voi vuole cimentarsi, è proprio scrivere il sogno in tutte le sue parti o tutto quello che riusciamo a ricordarci. E poi lasciarlo lì a decantare. Perché? Perché il fatto della scrittura è in qualche modo un riversare in materia qualcosa che se no si svolerebbe via. Ma è anche un depositare nella mente qualcosa che poi può fruttare. E ad esempio a me è capitato per anni, io ho tenuto per anni, ho cassetti pieni di diari, dei sogni che facevo, perché l'ho fatto almeno per 8-10 anni, e mi capitava durante la giornata di riagganciare quel simbolo e non so come mai, perché probabilmente vedevo qualcosa, si agganciavano, si coagulavano delle situazioni per cui quel simbolo diventava apprendeva un significato che aveva a che fare con la mia vita, naturalmente. È una forma di crescita. Però io non la insegno, perché secondo me è impossibile insegnarla, do solo degli strumenti a lato e poi dico, sei un ricercatore, ricerca, cioè lavora su queste cose qua, che è molto interessante. Possono essere indicazioni. Indicazioni. Va bene, non potevo essere più vago di così, ma il dottor Divago. Allora, facciamo, rispetto al blocco delle cose che vi ho detto l'altra volta, spero che siano stati perlomeno chiarificati sotto alcuni punti di vista, facciamo un passo indietro e poi un passo in avanti. Il passo indietro è questo, non è che l'ho dimenticato l'altra volta, ma se partivo da qua non finivamo più. Il passo indietro è questo. Allora, quando nasciamo, nei testi, è scritto non solo nei testi di psicologia orientale, ma soprattutto è scritto molto anche nei testi di psicologia occidentale, anche se sapete che io sono meno preparato di quelli dell'Occidente, è scritto che quando nasciamo siamo uno. Cosa vuol dire questo siamo uno? Siamo integri, cioè siamo, ho sbagliato a fare questo contorno qua, anzi non dovrei nemmeno scrivere uno, non dovrei far niente, ma siamo insieme con tutto il resto dell'universo, ok? Cioè non c'è una divisione. Da bambini siamo immersi energeticamente nel tutto. La nostra psiche non è la psiche di un individuo, ma è la psiche di una creatura, di un essere che è totalmente in sintonia e in armonia con tutto l'universo, ok? Però lo è in una maniera per cui non se ne rende conto. Infatti il bambino è, ad esempio, direttamente connesso con i suoi bisogni, non ha una mediazione. Se gli scappa la fa, se ne frega che non ha il pannolino, se ha fame urla, in quel momento è direttamente connesso, non c'è nessuna mediazione, giusto? Sì. Avviene a un certo momento una spaccatura. Una spaccatura. Qui si apre un mondo. Quando è che avviene questa spaccatura? Alcuni parlano del trauma del parto, io non penso sia quello. Cioè, ad un certo punto della vita, 7, 8, 10 mesi si dice, no, tra i 7 e i 10 mesi, ma insomma non è importante. A un certo punto della vita il bambino si accorge del dentro fuori. Ok? Cosa vuol dire del dentro fuori? C'è qualcosa fuori che lo limita. E come accade questo limitare? Ad esempio, le prime volte che si dice al bambino no, non si fa così, quello non devi fare, quello non va bene, è sbagliato, è giusto? Non stiamo parlando di pedagogia. Qui stiamo parlando di una iniziale confine in cui il bambino viene messo dall'educazione. Tutti abbiamo presente, no? Ad un certo punto noi in quel momento siamo e non siamo consapevoli, siamo ancora immersi in questo tutto. Ma quando cominciamo ad avere un minimo di presenza, ci accorgiamo che cominciano a indicarci le regole, giusto? Del vivere. Questo non è che va male o va bene, stiamo dicendo solo ciò che accade. Questo comincia a creare la spaccatura tra me, il dentro e il fuori. Fuori, dentro. Ma questa spaccatura dentro-fuori che cosa crea? Allora, è chiaro che c'è un confine fisico. No, questo non vuol dire niente. Noi stiamo parlando di psiche. Quando i genitori, e poi cominci ad andare all'asilo, a scuola, quindi ci sono altri adulti che ti dicono questo si fa, questo non si fa, adesso è ora di dormire, adesso è ora di mangiare. Ma io ho fame? No, si mangia stasera. E tutte queste norme, queste regole, che cosa creano a livello di psiche? A livello di psiche creano una parte di noi che semplicemente rimane fuori. Perché? Perché ci hanno detto che ci sono delle regole attraverso le quali delle cose vanno bene e delle cose non vanno bene. Questo crea, piano piano nel tempo, crea un individuo, ok? Meglio che scriviamo, un individuo non mi piace. Nel tempo questo crea una personalità. Personalità, oppure dà luogo ad un carattere, che è il nostro carattere. Poi che questo nasca da una indole, questa è una visione che prevede, questa è una spaccatura molto importante. Perché l'indole cosa ci dice? O il temperamento ci dice che non nasciamo tabula rasa, ma ci dice che ci portiamo qualcosa da una vita precedente. Come? C'è un corredo spirituale e un corredo materiale che viene chiamato corredo genetico. Il corredo genetico lo danno i genitori, l'indole è la manifestazione del piano animico. Allora, qui siamo già fuori dalla psicologia occidentale, o quasi, la transpersonale qua ci sta ancora un po', però diciamo questa cosa qua pendiamo un po' verso l'Oriente, è anche quello che penso io. Questo però è ancora immerso nell'uno, immerso nel tutto. Ci saranno una serie di regole che ci dicono c'è il fuori e c'è il dentro. Questo dà luogo ad un carattere. Il carattere o personalità, quindi la personalità è più complessa perché usa come strumento il carattere, è in qualche modo la manifestazione di ciò che siamo nella relazione. Mi seguite? Cioè nella relazione noi mettiamo in campo cosa? Quello che è stato costruito nei primi anni di vita. Ok? Quindi un bambino che vive alle Galapagos o alle Figi probabilmente si comporterà in maniera diversa da come ci comportiamo noi, perché lì c'è una tradizione completamente diversa. Ok? In Cina l'hanno allevato tutta la sua infanzia a mangiare cane, e quindi lui si aspetta che il cane sia una parte della sua alimentazione. Per noi è molto difficile, ok? Così come in India è molto difficile che un bambino venga allevato a carne di mucca, mentre qui è molto più facile. Ecco, questa è una banalizzazione, ma immaginatevi quanto complesso è tutto. Quindi questo carattere, questa personalità crea in me una separazione dal fuori, ma tutto ciò che ha creato questo fuori e che potremmo assommare in tutti i no che ci sono stati detti, soprattutto i no rivolti a quelle che noi a quelle cose, quelle propensioni che noi avevamo di fare, non sono andate perdute, non sono energie svanite nel nulla, sono semplicemente parti energetiche compresse, represse, che sono finite in quello che noi chiamiamo inconscio, ok? E qui ci colleghiamo alla lezione dell'altra volta. Chiaro questo passaggio? Sì. Ecco, questo era il pezzo prima, ma a me interessava l'altra volta darvi un po' il nucleo, capire cos'è. Ma il pezzo prima è abbastanza importante perché ci fa capire come arriviamo a costruirlo. Un po' l'avevo accennato l'altra volta, ma questo penso sia importante perché è una parte che ci riguarda. Allora, qual è la fine della storia, se una fine mai ci deve essere? È che questo lavoro, qui eravamo integri, inconsapevoli. Qua siamo disintegri, nel senso siamo frammentati ma consapevoli, nel senso che sentiamo di esserci qui, sì, c'è un sentire di esserci e basta, è già tanto rispetto al bambino papà cacanana, eh? Qua ci siamo, mediamo, relazioniamo. C'è un momento in cui questa cosa qua non ci sta più bene, quindi dovremmo ritornare ad essere integri e consapevoli. Questo processo Jung lo chiama, e anche Saggioli, individuazione. E questo processo è tutta la vita. Gli orientali direbbero questo processo è tutte le vite, capite? È estremamente interessante dal mio punto di vista vedere come molti sono i punti di contatto, sono veramente tanti. Chiaro che nella psicologia occidentale si guarda l'arco di vita da quando nasci a quando muori, mentre la psicologia orientale fa un percorso molto più lungo. Il percorso della vita è da quando muori a quando ti reincarni, quindi è molto più lungo. Però capite? Questo percorso è estremamente, a mio modo di vedere, interessante, perché fa vedere come ci sia uno stato di integrità, ma non ci sia la presenza. Non si sente di essere uno. Ci sia uno stato di presenza, anche se frammentaria, c'è questa presenza, ma ci si sente frammentati. Frammentati da cosa? Dal percorso che ha costruito questa personalità, che ha costruito questa frammentazione. Ma perché? Perché poi il tutto va ricostruito, riportato ad una integrità presente. E questo percorso qua porta all'illuminazione, porta ad essere uno col tutto nuovamente, ma perfettamente presenti. Secondo me questa cosa qua è una figata che ora adesso mi è registrato. Non lo so come la vedete voi, ma io la vedo come me. Ok. Non fa una piega. Ma sul fatto che non faccia una piega magari ci riflettiamo, però che stia in piedi questa cosa non lo dice Demetrio, grazie a Dio, non lo dice Demetrio. Ci sta. Lo dicono quelli che dicono, beh, ma io lì ci sono arrivato e vi dico che è così. È chiaro che dobbiamo basarci un po' sulla fede. Ma pensa quanto fa liga che se. Ma vi ricordo che tutto è fede. Che quando che nascemo, che venimo castrai, no? Ma secondo me ha la sua utilità, perché tu ti comporteresti come un bambino a 40 anni, 50 anni? Non sarebbe una società vivibile, perché il bambino ha i tiramenti, fa quello che vuole, rosso, ma che me frega, cioè vado. No, no, ma anche, voglio dire, sul discorso castrare, però nel senso inconsapevole, che se fosse una costruzione consapevole, partendo, allora, prima la famiglia, di conseguenza alla società e tutto quello che vado io. Per cui che c'è un lavoro qua. Allora, la società che abbiamo, domani sera lo scrivo meglio, ma la società che abbiamo crea il giusto attrito, secondo me. Cioè, l'uomo di per sé è un'entità estremamente pigra. La mente viaggia, ma non perché sia l'uomo, perché hanno inventato il telecomando, dicono, ma non è così, nel senso, cosa vuol dire essere pigri? Vuol dire che la mente è un grandissimo strumento di risparmio energetico. La mente lavora sempre per stare al massimo risparmio di energia. Quindi, quando conosce una modalità, usa sempre quella, anche se produce sofferenza, non importa. Usa sempre quella. Si chiama linea di minor resistenza, me l'avete sentita nominare più volte. Questa linea di minor resistenza è la modalità migliore di vivere? No. Ma è quella più comoda. Ma questa più comoda può produrre sofferenza, può creare situazioni, non importa, perché quella è quella che ho imparato io e quella è quella in cui mi trovo a mio agio. È un agio disagio, ma è un mio agio. Questo fino a quando non arriva un grosso dolore che scuote tutte le fondamenta e ti fa cambiare strada. Capite? È fondamentale questa cosa qua, perché altrimenti noi continueremo proprio a stare in questa modalità abbastanza pigra. Io la chiamo pigra, insomma, sì, poi ci sta perché effettivamente ha un senso anche la parola, insomma. Allora, la sofferenza sembra essere una determinante quasi, la sofferenza per il cambiamento, per riflettere di più. Si cresce solo per due vie, per conoscenza o per sofferenza. È un'opportunità. Per conoscenza, sì. Ma per conoscenza cosa vuol dire? I testi, questo è proprio chiaro nei testi orientali soprattutto. O raggiungi la consapevolezza e quindi ti attivi per individuarti, per raggiungere questa realtà una in cui tu sei immerso, ma di cui hai perso i collegamenti, o altrimenti qualcosa farà attrito per farti cambiare strada. Qualcosa farà attrito. E che cosa? L'attrito lo incontri con la sofferenza. Quindi sarai abbandonato, sarai tradito, sarai angosciato, sarai ferito, e cioè, in tutti i casi, cioè sia fisicamente che emotivamente, fino a quando non sarai messo nella giusta strada. La vita, lo si dice sempre, sembra una frase da Baci Perugina, ma la vita è il vero unico maestro che incontriamo, il vero unico maestro, è che noi ci ostiniamo a non voler comprendere. E quando noi abbiamo creato tutta questa parte inconscia, la parte inconscia come reagisce? Come reagisce? E adesso vi leggo come. Vi do un consiglio per chi di voi ha questa malsana passione di leggere, che è un bel testo secondo me, perché gli antichi queste cose le conoscevano bene e le hanno depositate, queste forme si manifestano, sono manifestate nel tempo attraverso fiabe e miti. Il lavoro sui miti, sulle figure dei miti è meraviglioso e se qualcuno di voi è anche molto affascinante, quindi è anche facile seguire queste vicissitudini, queste forme dell'inconscio, se prendono le forme di una divinità mitologica. E allora ci sono due testi secondo me molto interessanti che potreste prendere in considerazione, e sono di Jean Bonnet. E per le fanciulle, le dee dentro la donna, e per i fanciulli, gli dei dentro l'uomo. Okay? E trovate lì gli archetipi che si muovono attraverso queste immagini deificate e riscontrate le vostre, ad esempio, attitudini, quelle che emergono quando siete magari in difficoltà, quando siete nella sofferenza. Sono due bei testi, secondo me, scritti forse negli anni 60. Non ricordo. Quando tanti anni fa portavo in giro le conferenze, facevo conferenze per le donne, figurarsi, e parlavo delle idee dentro la donna, c'era sempre un grande riscontro. Allora, vi leggo due brani che secondo me sono molto interessanti, spero anche per voi. Ora che abbiamo capito come si è formata questa storia qua e come si palesa, come diciamo così, la possiamo intuire, diciamo così, come parte della nostra psiche, ora vorremmo capire anche come smascherarla, sì o no? Come facciamo ad accorgersi quando siamo nell'ombra? C'è uno strumento semplicissimo da narrare, ma un po' meno semplice da mettere in pratica, che è la proiezione. Si chiama proiezione. Il metodo è proprio quello della proiezione. Vi leggo un paio di brani. Non è facile riconoscere la nostra ombra, perché tende a rimanere nascosta, ma c'è un meccanismo dentro di noi attraverso il quale si manifesta e si chiama proiezione. Possiamo riconoscere che c'è una prenazione in atto quando ci sentiamo respinti o attratti dagli attributi, dalle qualità o dal comportamento di altre persone. Allora, questo è molto buddista. Abbiamo detto molte volte che nel buddismo, non solo in esso, ma anche in buona parte dei darshana ortodossi, della filosofia indù, abbiamo detto che le forme di relazione con ciò che accade sono tre: attrazione, repulsione e neutro, giusto? Sorge l'attaccamento, sorge la repulsione, oppure sorge la forma neutrale, non produce nulla. Alla base c'è ad esempio la relazione della comportamento nella realtà con l'emozione più ancestrale, che è la paura, no? Quando noi viviamo una potente paura, come reagiamo? Attaccando, scappando o facendo il morto, okay? In natura succede così, cioè, non è che l'animale elabora, la sua specie lo fa reagire così, capisce com'è la situazione. C'è la tigre, sono una gazzella, non attacco, scappo, ok? C'è la tigre, sono una tigre più grossa, un leone, io non si incontrano, ma E invece ci sono anche forme animali che si chiudono, addirittura cambiano addirittura colore perché fanno il morto. Alcune emettono anche dei miasmi come se fossero in putrefazione. Quindi queste sono le tre forme: attaccamento, repulsione e neutralità. Noi sbianchiamo dalla paura. Sbianchiamo dalla paura, certo, sbianchiamo dalla paura. L'antipatia che proviamo per un particolare comportamento deriva dal fatto che quel comportamento è presente in noi. Questo meccanismo è uno sforzo inconscio che ci permette di bandirlo da noi stessi per impedirci di vederlo in noi. È chiaro? Cioè lo bandiamo da noi stessi e lo vediamo nell'altro perché diciamo è colpa sua, è lui che si sta comportando così. Ma se in noi vibra, significa che in noi è presente quella vibrazione. Altrimenti non vibrerebbe, ok? È proprio un entrare in assonanza. La prima volta che ho letto questa roba qua ero poco più che ventenne, ho avuto una specie di trauma, perché abituato, sono sempre stato un ottimo osservatore, abituato ad osservare e a giudicare gli altri, ho capito che ero strapieno di casini, perché vedevo negli altri tutte le, quelle che io chiamavo difetti, ma non sono una merda, perché cioè, leggi queste cose qua, capisci, no? Allora, è un meccanismo di difesa, perché proveremo dolore, vergogna o paura nel renderci conto che anche noi abbiamo questi attributi. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci ad una profonda comprensione di noi stessi. Questo è Jung. Sì, la proiezione è un meccanismo di difesa, ma può essere vista come un modo per tornare ad essere integri. È una via. Poiché le caratteristiche imperfette nell'altro attivano alcuni aspetti di noi stessi, possiamo prenderci cura e lavorare su quelle parti che abbiamo rinnegato. Se non fosse per questo fenomeno, tali parti rimarrebbero per sempre nascoste in noi stessi, nascoste per tutta la vita. Provate ad immaginare che ci sia, che non ci sia alcuna reazione, no? Totale apatia nei confronti di quello che accade. La nostra parte inconscia semplicemente rimarrebbe profonda e inattaccabile per tutta la vita. Come ci accorgiamo i punti su cui lavorare? Nel momento in cui leggiamo queste cose e gli diamo un po' di fiducia, chiaramente, cominciamo a dire, beh, ma allora la realtà che vedo fuori è specchio della realtà che ho dentro. Seguite? Ma se è specchio della realtà che ho dentro, allora significa che posso lavorare sulle cose che emergono quando sono in relazione e si comincia ad auto-osservarsi più che a giudicare. E questo è un passaggio fondamentale, fondamentale. Si smette di giudicare il fuori per quanto possibile. È importante quel per quanto possibile, perché è possibilista, non è che di colpo ecco, tutto il mondo è colpa nostra. Si smette di giudicare il fuori e si comincia a prendere contatto con questi moti interiori che sorgono dalla relazione. È chiaro? Sarebbe la realtà, il fuori che vibra. Il fuori che vibra, se vibra dentro, significa che entra in relazione. Se non vibra dentro, due sono le cose. O sono così inevoluto che nulla mi tocca, o sono così evoluto che accetto e accolgo tutti. Ma devo essere molto evoluto. Non è un accettare perché sono superiore, è perché comprendo che ci sono persone in cammino, anime in cammino come me, anche se mi stanno ferendo in quel momento. Anche degli specchi esseni, questo un po'. Sì, io conosco poco quella teoria là, però penso che siamo su quella onda lì. Un amico tempo fa me ne ha parlato, ma non conosco molto. Uno degli specchi si assomiglia molto. Molto. Facciamo un esempio. Forse non ci piace quando le persone si arrabbiano. Invece di serano, mettete qualsiasi altra roba che a voi però risuoni. Sia che lo facciano in modo maturo che lo facciano in modo immaturo. In tale circostanza potremmo chiederci che tipo di credenza e relazione abbiamo con questa emozione, con la rabbia. Se accetto e accolgo la mia rabbia esprimendola in modo maturo, quando qualcuno la manifesta non mi sentirò turbato, non mi influenzerà. C'è un altro piccolo brano, ci siamo, siamo giusti, perché io ho sempre il bulimico, ho sempre un sacco di roba. Osservate le vostre reazioni emotive. Questo più che una parte teorica è, da quella parte teorica andiamo su una parte pratica, che però è già stata palesata prima, però questa è un po' più pragmatica, diciamo. Ricordatevi che l'ombra è sfuggente, si nasconde dietro di noi, dietro, bella sta cosa. I nostri meccanismi di difesa sono progettati per tenere le nostre ombre represse e fuori dalla vita. Interessante questa cosa. Sono progettate le nostre difese per tenerle nascoste fuori, e quindi fuori cosa vuol dire? Negli altri. Vedere negli altri ciò che vibra in noi. Ma quando noi lo vediamo e lo sentiamo che vibra in noi, la norma è, ma è lui che è fatto così, ma è lui che si arrabbia sempre, ma è lui che è superbo, ma è lui che ha tutte queste emozioni negative, no? Ma se vibra, abbiamo detto, ok? Più si presta attenzione al proprio comportamento e alle proprie emozioni, maggiori sono le possibilità di cogliere la nostra ombra in azione. Tenete presente che tendiamo a proiettare le nostre parti rinnegate su altre persone. Ecco perché si chiama proiezione. Si chiama proiezione, anche si chiama ombra, forse non so se l'ho detto in maniera molto chiara, perché la luce della consapevolezza, quando ci investe, ci fa vedere delle cose, ma nel contempo ogni luce proietta un'ombra che è dietro di noi. Quell'ombra non ce la scogliamo mai. Non possiamo, non so se qualcuno di voi ha letto Peter Pan. No? Visto il film? Sì. Ok, ci accontentiamo del film. E il libro è completamente diverso. Il libro è un libro per adulti, eh? Peter Pan è un libro per adulti, ma adulti adulti, carrozzati, eh? Perché narra. Peter Pan è una figura psicopompa. Sapete cos'è una figura psicopompa? No. È come Caronte, è colui che ti accompagna nell'aldilà. Quindi è proprio una figura che accompagna le persone che muoiono. I bambini sono tutti in pigiama sempre, sono bambini di un sanatorio che muoiono come le mosche. E quindi questa figura accompagna questi bambini alla morte. Cioè è un libro pazzesco quello. Difatti perché è una figura psicopompa? Perché la sua ombra se ne va, la perde, non ha l'ombra. La sua ombra va per i cazzi suoi. Ed è molto interessante perché, queste figure sono ancestrali, non hanno l'ombra in qualche modo. Quindi quando ci proiettano la luce addosso, la luce della consapevolezza, noi vediamo delle cose, ma nel contempo attiviamo l'ombra, attiviamo una parte di noi che ci segue appiccicata a noi, ma diciamo così non la riconosciamo. Quello che ci viene chiesto è, ok, sappi che ce l'hai e in questo momento ti sta anche dirigendo nelle reazioni. Sì, l'ombra è sempre l'inconscio. Sì. Uno dei modi migliori per identificare la nostra ombra è quella di fare attenzione alle nostre reazioni emotive nei confronti degli altri. Certo, i vostri colleghi potrebbero essere aggressivi, arroganti, sconsiderati, impazienti, anche i capi, anche i clienti, anche i fornitori, anche gli amici, no? Ma se queste caratteristiche nulla scatenano in voi, vuol dire che avete capito che le caratteristiche sono loro. E quindi non offrirete una forte reazione emotiva di rimando, pur di contrastare il loro comportamento. Se riuscite a fare molta attenzione, potete allenarvi a riconoscere la vostra ombra quando siete in balia di forti emozioni negative, in risposta alle azioni degli altri. Come ci insegna Jung, tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. Alla fine della giornata è utile impiegare 5 o 10 minuti per riflettere sulle vostre interazioni con gli altri e sulle vostre reazioni correlate. Questo è un altro esercizio che io insegno, chiaramente non in questi percorsi, e si chiama ricapitolazione. La ricapitolazione mi hanno insegnato tantissime visioni diverse, la trovate in Castaneda, io ho fatto quella castanediana per tanti tanti anni, ma la trovate anche in Rudolf Steiner, la trovate in Gidi Krishnamurti, la trovate in tante vie, la trovate anche nella via cristiana cattolica. Cosa vi diceva la nonna, se era una nonna credente, quando vi mandava a letto con la mamma? La mamma diceva: fasile un esame di coscienza. Cosa pensate che sia questa cosa qua? È un rivedere la giornata, non emotivamente, ma semplicemente rivederla a partire dall'ultimo momento, tornando fino alla mattina, segnando i momenti principali che sono stati quelli magari di attrito, quelli di emozioni negative, magari di rabbia, magari di sconforto, magari di angoscia, ma anche quelli belli, di gioia, di felicità, e vedere in quel momento quali parti di noi sono emerse. Lì, quel lavoro lì, è un lavoro, a mio avviso, eccezionale, perché ci mette a contatto, come vedessimo un film, quindi noi siamo esterni, ci mette a contatto con, nel mio caso, con il Demetrio che in quel momento ha reagito in maniera veemente, potente, forte, e dice: beh, ma in questa relazione c'è stato uno stimolo esterno a cui tu hai risposto con questa vibrazione, perché è presente in te. E allora si può lavorare su questa cosa, perché lo facciamo in terza persona. Però, a volte, mi è capitato ieri, noi non possiamo rimanere, allora, rispetto all'altro, l'altro ci dà delle risposte, noi facciamo chiediamo delle cose, l'altro ci dà delle risposte. Sì. A volte sta a noi, io ho l'impressione solo in questa fase, sì, di non reagire, ok, non reagire vuol dire stare calmi, però nello stesso tempo impostare, tra virgolette, non è una, è una forma forse di presunzione, ma non credo. Impostare un attimo il discorso dell'altro, non il discorso nei termini, cioè l'altro si rivolge a noi in un determinato modo, sì, noi non reagiamo, oppure cioè, lo scopo di questa nella relazione è quello di, qual è lo scopo? Quello della comunicazione, ma nella comunicazione entrano anche tante modalità che, certo, sono, che non sono, che non portano, sembra che non portano a niente. Quindi perché la relazione porti a qualcosa nella parola? Sì. Noi dobbiamo avere, al di là di quello che dici tu, che non giudico, non dico niente, ma lo studio, cos'è che dobbiamo ottenere? Cioè c'è sempre uno scopo del perché si parla, certo, no? Perché sennò si rischia di rimanere così, io non reagisco al ma discorso. Ma penso ci sia un misunderstanding, sai? C'è un misunderstanding. Cos'è? Non sono riuscito a farmi capire. Allora, non è che non si reagisce, si può reagire, ma anche in maniera molto veemente. Si può anche litigare, si può anche arrabbiarsi. Qual è il quid? Accorgersi. Non entrare nell'automatico, non entrare nell'automatismo. Ah, ok. È un'altra cosa, è un altro film. Guardate che qui l'accorgersi, l'essere consapevoli dei moti emotivi che si mettono in moto, è quello che fa la differenza, non il come. Non è che da domani mattina divento Gandhi, per cui mi possono battere come un cacco e io semplicemente, non è così. La domanda è molto pertinente perché mi permette di spiegarmi ancora meglio. Non funziona così. Posso reagire in tutti i modi che mi piacciono, anche picchiando la persona, spero di no, ma la differenza lo fa, ci sono o semplicemente lui, lei, loro hanno schiacciato il pulsante dell'automatismo ed è partito l'automatismo. da cui io mi ritorno consapevole quando l'emozione mi ha mollato. Quando quell'emozione è calata di intensità, torno nella presenza. Quello è il problema, perché lì c'è l'automatismo della reazione, divento un automa. Ma quello che ci viene chiesto qui è: ci sei in quel momento o no? E quella è tutta la differenza. Da quel ci sei in quel momento, cioè c'è una parte di me che riesce ad osservare il Demetrio che reagisce, lì fa tutta la differenza. Ma quella parte di me che è in stato di osservazione, come fa a nascere? Meditando. Perché abbiamo fatto i corsi base? Perché abbiamo coltivato la consapevolezza nel corso base? Perché abbiamo coltivato la gentilezza amorevole nel corso avanzato dei Brahmavihara? Perché quelli sono gli strumenti che mi permettono poi, nella relazione in cui sorge l'ombra, di esserci. È tutto collegato. Non abbiamo fatto le cose così. Esserci vuol dire che io in quel momento dico quello che volevo dire. Che senti di dire, consapevole del fatto che sei presente e potresti anche ferire l'altra persona. Deliberatamente voglio ferire l'altra persona? Può essere. Ma in quel momento sono responsabile. Non c'è in qualche maniera qualcuno che mi ha indotto. Cosa si dice? Quando si finisce uno scatto di ira di quelli potenti, si dice, non ero in me. Ma non è un modo di dire, è vero. Semplicemente si è palesata la rabbia e si è impossessata dell'individuo. Quando la rabbia è calata di intensità, l'individuo è tornato... Ah, scusami, guarda, non capivo più niente. È morto. È così? Quindi è fondamentale coltivare la presenza, perché più sarò presente e più la mia reazione sarà una reazione consapevole. Quello fa tutta la differenza. Vi ho parlato forse qualche volta del... Ci sono dei maestri che reagiscono in maniera potente, rabbiosa. Molto, si chiamano forme irate. Se, non so, magari le avete anche viste, sono delle maschere che si vedono tanto dell'Oriente, queste maschere col ghigno, con gli occhi fuori della testa, con la lingua di fuori. Sono manifestazioni del divino, anche quelle, ma un divino che impone un certo tipo, che fa, è arrabbiato, ma dentro è perfettamente presente, è perfettamente calmo. Perché? Semplicemente utilizza questa manifestazione perché in quel momento c'è bisogno di quella. Uno che medita non diventa una mezza sega. Perché medita? Non diventa, ok, una mammola perché medita. Non c'entra nulla questo. È semplicemente presente e responsabile di quello che fa. Quindi se in quel momento c'è bisogno della sua forma irata, o c'è presente della sua forma assertiva, semplicemente la mette in campo, consapevole di ciò che sta mettendo in campo, delle energie anche separative, ma in totale presenza. Questo è una forma di responsabilità, perché altrimenti si fa cosa? Si picchia uno o gli si tirano le cose, fa, ah scusa, non era in me. Chiaro che non era in me, perché eri preda delle tue emozioni. Capite? Fondamentale questa cosa, se no serve a niente la meditazione, serve a niente, a nulla. Spero che, avendo tirato fuori la mia forma un po' più assertiva, anche perché se no prendete sonno, spero qua. Allora, riconoscere quella parte, qualunque cosa ci dà fastidio in un altro, è probabilmente una parte rinnegata, probabilmente una parte rinnegata di noi stessi. Questo probabilmente è molto importante. Non seguiamo tutto adesso dentro fuori, quindi diamoci anche gli spazi per poter fare le cose senza pensare sempre che siamo sbagliati. Riconoscere quella parte e accettarla come una parte integrante della nostra personalità fa sì che la prossima volta gli altrui comportamenti non evocheranno più una forte carica emotiva quando le osserveremo negli altri. Concentratevi su cosa e chi evoca in voi questa carica emotiva. Non importa quale sia l'emozione, è un indizio che bisogna lavorare su qualcosa che neghiamo in noi stessi. Ok? È un indizio. è un lavoro lunghissimo. Guardate, io lavoro da tanti anni, sono studiato qua, sono me stesso, con le persone, ma ora sto facendo un percorso che prende sempre queste cose qui da un'altra parte, attraverso un processo che si chiama focusing e che è un processo che lavora con le subpersonalità teorizzate da Sajori. Quindi figurarsi, cioè, non è mai finito. Ora avete qualche strumento in più, se domani litigate con qualcuno non colpevolizzatevi, ma perché sennò si innesca un meccanismo perverso, ma cominciate a dire: beh, ma ascolta, se ho sentito, se mi sto incazzando, potrebbe essere che c'è qualcosa in me, ok? E quindi cosa posso fare? Posso stare con quella parte, perché se qualcuno mi attacca, sto là, posso sentire, non so, che mi si chiude la gola, che mi si chiude lo stomaco, ok? Posso sentire che ho un irrigidimento delle spalle, mi tendo, oppure mi affloscio, oppure sbianco, perché ho un po' di paura magari, no? Ecco, questa parte qui è perché una parte di noi si sta palesando. Anche solo non rispetto alla rabbia, rispetto anche a un'emozione forte che può provocare una persona. Qualsiasi emozione. Qualsiasi emozione provocata in noi, in qualche maniera, attiva, è come se... pensate sempre all'altra persona come a una persona che riesce a schiacciare quel pulsante che attiva quell'emozione. Provate a pensare, facciamo solo una piccola pratica perché tanto poi per questa settimana ho solo da darvi qualche indicazione, non ho altro. Voi pensate ad una persona, anzi meglio che ci pensate che poi ce la portiamo in pratica. Ognuno di noi nella normalità, no? Pensa a se stesso come a un bonasso. Sì, va bene, sono tranquillo. Sono una persona tranquilla, vivo tranquillo. Poi però capita che incrociamo quella data persona che gli basta uno sguardo o due parole e qua si muove il mondo. Vero o no? Non so, basta parlare anche ai giornali, magari se qualcuno di voi ancora lo guarda, no? Magari qualche faccia di governante, insomma. E muove, no? Muove. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che questa, probabilmente, dobbiamo sempre fare molta analisi prima, è un nuovo modo di vedere la vita. Questa forma che si mette in piedi snida qualcosa di noi che noi teniamo nascosto. Per cui nella normalità, essendo nascosta, essendo coperta da un sacco di materiale psichico, semplicemente nella normalità noi ci comportiamo tranquillamente, nessuno viene a snidarci. Adesso non voglio dire che dovete andare in cerca del rompiballe per tirare fuori quella parte inconscia, no, non fatelo. Ma quando capiterà, perché capiterà, invece che un atteggiamento di mandare eccetera eccetera l'altra persona, fatelo. Ma ascoltate anche voi e vi ascoltate sia emotivamente che fisicamente, perché fisicamente l'emozione produce, vi si chiude lo stomaco, vi si rigiriscono le spalle, e questo è un messaggio chiaro, il primo messaggio che la parte inconscia vi sta comunicando qualcosa, perché non ha un altro modo. Non state dormendo per cui sognate. Un incubo, ad esempio, può essere proprio riferito a qualcosa che è capitato durante il giorno o durante i giorni precedenti. E questo incubo è pieno di simboli che magari vi dicono, quella parte dell'inconscio vi dice: oh, sono qua, lavora anche con me un po'. Ma durante lo stato di veglia come si manifesta? Attraverso le sensazioni del corpo, l'emozione che si aggancia al corpo. Però prova a farla in senso, io non lo ritengo più positivo, lo ritengo negativo, ma ho anche i miei anni per dirlo. Certo. Una persona che ad esempio ti colpisce, no? Nel classico magari innamoramento di quando sì. Ecco, è la stessa cosa praticamente, sì, certo, no? E, allora, certo. E allora lì, cioè, dimmi qualcosa di più rispetto a questo, come posso, adesso non mi difendo più, sì. Ma come ci si può difendere ad esempio? Diventando consapevoli. Ma consapevoli che quella parte è magari così preponderante. È feribile. Si può renderla non feribile. Ok, ma allora si può dire, possiamo dire di più? Come non renderla non feribile? Su come lavorare? Accettandola. accogliendola, integrandola. Scusa, io lo capisco il meccanismo in negativo, no? Sì. Per esempio, io faccio fatica a gestire l'arroganza perché probabilmente è una cosa che meglio di me, e qui certo. Qua mi fanno piega. Ma il discorso che faceva lei, vedi una persona e ti esplode il cuore. Sì. Come lo leggo? Perché ha qualcosa che amo di me stessa? Cioè, qual è il meccanismo? Ti esplode il cuore in che senso? Scusa? Nel senso, tu vedi una persona e sei fulminato da questa persona. Sì, sì. Nel negativo lo capisco, perché smuove qualcosa. Nel positivo è l'innamoramento, che va bene, non c'è mica nessuna... Stiamo parlando di lavorare con le parti che creano frammentazione e sofferenza. È una dinamica diversa. È una dinamica diversa, sì. Può essere una dinamica patologica anche quella. Io sono stata con un narcisista. Certo. Un narcisista non è un narcisista. Ho studiato il fenomeno per 4-5 anni, lo sto studiando ancora, perché poi alla fine ho dovuto capire cosa mi era successo. Mm-hmm. Per cui il fatto che io sia stata così attratta da questa persona, in cui io non ho avuto la possibilità di decidere se non di avere una relazione con questa persona, sì. A parte che poteva anche essere altro, io non conoscevo il fenomeno, adesso che lo conosco lo voglio diffondere, lo sto diffondendo, perché se posso salvare una ragazza da quello che ho vissuto io e dalle persone che conosco che hanno vissuto con un narcisista, sarebbe già una bella cosa per me. Allora, per queste cose, io non credo che sono solo sono delle cose che tu hai dentro e sì, che tu hai dentro, quindi anche su queste io devo lavorare. Certo. Perché se tornassi indietro ci ho lavorato quasi una vita. Sì. E quindi questa è stata la mia quello che mi ha dato la possibilità di rivedere completamente la mia esistenza alla luce di questo, di quella cosa che mi è accaduta, quindi perché mi apparteneva. Bisognerebbe ringraziarla questa persona. Beh, questa persona, no, io però... trasformarla in un benefattore difficile. Sì, perché è colei che ti ha messo su questa strada, saresti rimasta completamente inconsapevole, altrimenti. Forse. Eppure dicono che sono i nostri maestri le persone che ci... Ma sono gli unici che ci possono mettere in quella strada. E come diceva lui, è la sofferenza poi che ti fa muovere. Gli unici, no? Sono gli unici. Castaneda parla dei piccoli tiranni. E i piccoli tiranni sono quelli che incontriamo tutti i giorni e che ci fanno, ci mettono a contatto con quelle parti di noi. Un maestro come diventa maestro? Così? Perché si compra, consapevolezza, tanto anch'io, al Lidl? No. Perché semplicemente passa intere vite a soffrire. E quando uno si mette nel percorso della spiritualità, questa via si accorcia. Quindi il tuo karma, invece che vivere in 30 vite, lo vivi in 2 o in 3. Guardate le vite dei grandi maestri come sono. Guardatevi la biografia di Assagioli. Tanto per dire. Quindi, semplicemente, quando incrociamo la sofferenza, nel momento in cui soffriamo, soffriamo. Se però poi ci mette in cammino, arriverà un momento in cui ringraziamo quella persona che ci hanno fatto soffrire. Arriverà un momento. Non è necessario farlo prima del tempo. Facciamo una breve domanda. Scrivetemi durante la settimana, perché intanto ormai è finito il tempo. Facciamo solamente... vi do due indicazioni. Durante questa settimana, utilizzando quella parola chiave, quella frase, eccetera, provate, non in meditazione, anche durante il giorno, anche scrivendo, o se volete in meditazione, proprio a rinverdire dei momenti di sofferenza lieve, non andate in cerca dei tempi di Marco Cacco, lieve, qualcosa che è capitato magari recentemente, anche solamente a livello, come si può dire, di prova, di test. Come mi sento quando quella persona mi dice qualcosa? Come mi sento quando mi trovo in quella situazione? In quel determinato ambiente, magari anche un ambiente di lavoro mi può far sentire la parte in ombra. Come mi sento? Come sto? Quale parte, quale emozione sorge? Ansia, paura, timore, paura del futuro, angoscia, rabbia, abbandono. Cosa sorge? E quando sorge questa paura, questa emozione negativa distruttiva, ci sto un po' a contatto, la voglio sentire. Se sento che mi trascina, uso il gesto, la parola ed esco, ok? Perché devo cominciare a prendere contatto intanto in ambiente protetto, che è quello dell'ambiente meditativo, prendere contatto con l'ombra. Lo facciamo in maniera molto delicata attraverso queste simulazioni, chiamiamole così. Ok? Chiaro per tutti? Sì. Facciamo un po' di respiro corpo, semplice, e poi andiamo via. Che stasera è stata una serata ricca. Bene. Prendiamo la nostra posizione. E semplicemente facciamo un paio di minuti di respiro corpo in silenzio prima di salutarci. Lasciamo andare tutti i concetti, i pensieri. Ora per questo paio di minuti nulla è importante, semplicemente il contatto con noi stessi. Mente e salutarci. E grazie. Grazie. Sempre molto arricchente stare con voi. Mi raccomando, non sono cose scritte sul granito, nessuno ve le tatuerà.